è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Eccoci qui, gentili ascoltatori, questa sera in diretta eccezionalmente da questo splendido scenario che è la Fiera del Libro di Torino, ma noi siamo sempre gli stessi e allora vi do subito il mio telefono per intervenire e commentare insieme i fatti del giorno. 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre telefonate, 349 238 6666 per i messaggi, lazanzara@radio24.it per le vostre mail. Iniziamo come al solito con i titoli del TG2. Crolla il PIL europeo, meno 5,9 in Italia, mai così male dal 1980, peggio la Germania. Berlusconi, la crisi esiste, dati che sapevamo, ma c'è un miglioramento, pesa il fattore psicologico. Due pregiudicati uccisi in un agguato a Palermo, si teme una nuova faida tra clan mafiosi, ferito accidentalmente un commesso, un ragazzo di 21 anni, figlio di un carabiniere. Assolti in appello a Bologna, due ragazzi condannati in primo grado per stupro, accusati da una loro amica, finirono in carcere, il loro legale vittime di un linciaggio mediatico. Blitz antidroga della polizia a Roma, spacciatori sorpresi dalle telecamere nella strada alla periferia della città, 13 in carcere, tutti giovanissimi. Non crede più alla terra promessa Eros Ramazzotti, nel suo nuovo album Ali e Radici non c'è spazio per le illusioni, canta temi sociali come l'incomunicabilità con una punta di amarezza. E va bene, dopo i titoli del TG2 andiamo a sentire Studio Aperto. Un mistero, la morte in Perea di un bambino di 17 mesi, portato in fin di vita in ospedale. Il piccolo aveva sul corpo lividi ed ecchimosi. Indagati per omicidio colposo la madre, una giovane di origine lettone, e il convivente. Domani l'autopsia servirà a chiarire le cause del decesso. Napoli, un giorno di paura. In una piazza del centro, quattro uomini incappucciati fanno scendere i passeggeri da un autobus, poi gli danno fuoco. Gruppi di disoccupati rovesciano cassonetti e assediano una sede di partito. Imprenditori italiani al servizio del mercato cinese delle false GRIF. È l'inedita alleanza scoperta dalla Guardia di Finanza, che ha sequestrato 370.000 tra sciarpe e foulard contraffatti. Tutti consigli per distinguere i capi autentici da quelli finti. Titoli principali di Studio Aperto. Vi ripeto il numero di telefono, ormai lo conoscete, 800 24 00 24. Ci poniamo qualche domanda sui premi Nobel. Perché qualche volta uno si chiede, ma perché uno ha preso un premio Nobel? Sicuramente per le cose meravigliose, il premio Nobel per la letteratura naturalmente, sicuramente per le cose meravigliose che uno può scrivere, però leggo un articolo, uno scritto di José Saramago, che è certamente un bravissimo scrittore. Sentite, regala perle di saggezza intorno a Berlusconi. Il Catilina di oggi in Italia si chiama Berlusconi. Non ha bisogno di dare la scalata al potere perché è già suo, ha abbastanza denaro per comprare tutti i complici di cui ha bisogno, compresi giudici, deputati e senatori. È riuscito nell'impresa di dividere il popolo italiano in due parti, quelli cui piacerebbe essere come lui e quelli che già lo sono. Adesso promuove l'approvazione di leggi discriminatorie in modo assoluto contro l'immigrazione illegale. Avete sentito bene? Adesso promuove l'approvazione di leggi discriminatorie in modo assoluto contro l'immigrazione illegale. Si inventa pattuglie di cittadini per collaborare con la polizia nella repressione fisica dei migranti senza documenti e, colmo dei colmi, proibisce ai figli di padri immigrati di essere iscritti nei registri civili. Catilina, quello storico, non avrebbe fatto di meglio. Questo è un premio Nobel per la letteratura. E allora vi ricordo, anzi vi faccio riascoltare, quello che ha detto ieri sera da noi qui a Radio 24, perché noi invitiamo tutti, Dario Fo. Il problema non è l'immigrazione, i problemi degli italiani sono altri. Quando questi barconi arrivano, il problema come lo risolviamo? Il problema fondamentale è valutare seriamente quanti sono e che percentuale sono. Quando io vengo a sapere che quelli che arrivano via terra sono il 40% rispetto a quelli che vivono per mare, che sono il 3, il 4, il 5%, allora comincio a vedere lo spazio, il valore e il peso e me ne prendo carico in quella dimensione. Li faccio entrare? Tutti quelli che arrivano, e allora ripensioniamo la cosa, non cadiamoci nella trappola di bisogna fare, dire, eccetera. Vabbè. Cominciare a dire, beh, forse è il caso di a farli scendere, di valutare quelli che hanno bisogno, quelli che sono in fuga perché rischiano la vita, i bambini, la disperazione, via dicendo. Ho capito. Farli arrivare comunque in Italia, farli arrivare comunque in Italia e poi valutare. Farli arrivare in Italia e poi valutare. È certo. Farli arrivare tutti in Italia e poi valutare. Il benaltrismo di Dario Fo, ancora, ancora, sentiamo. Io sento che è falsa questa paura, questo terrore che si mette in giro. Che in un momento in cui ci sono tragedie molto più grandi, come quella di centinaia di migliaia di persone che perdono il lavoro, che non sanno come sbattere la vita, che non sanno come superare certe cose, ma quanto ci piove dentro pulito questo problema degli stranieri che vengono qua, che sono pure colorati, quindi ancora di più. Ma come voi giocate sulla pelle di questi vostri, oltretutto li adoperate come capro espiatorio per distrarre la popolazione di cose che sono veramente gravi. Allora, avete sentito Dario Fo, 800 24 00 24, il numero di telefono per intervenire. Secondo Repubblica, le domande che in questo momento, domande politiche, questioni politiche aperte che bisogna porre a Silvio Berlusconi sono queste, ve le ripeto, le ha pubblicate lei ieri o l'altro ieri, adesso non ricordo bene. La prima, signor Presidente, si sta parlando ancora del caso di Noemi Letizia. Signor Presidente, come e quando ha conosciuto il padre di Noemi Letizia? Sono domande politiche molto importanti, fondamentali, cruciali per Repubblica naturalmente. Nel corso di questa amicizia, seconda domanda, quante volte vi siete incontrati e dove? Come descriverebbe le ragioni della sua amicizia con Benedetto Letizia? Perché ha discusso delle candidature con Letizia che non è neanche iscritto al PDL? Quando ha avuto modo di conoscere Noemi Letizia? Quante volte ha avuto modo di incontrare Noemi Letizia e dove? Lei si occupa di Noemi e del suo futuro e sostiene economicamente la sua famiglia? È vero che lei ha promesso a Noemi di favorire la sua carriera nello spettacolo in politica? Veronica Lario ha detto che lei frequenta minorenni, ce ne sono altre che incontra o alleva? Sua moglie dice che non sta bene, che andrebbe aiutato. Quali sono le sue condizioni di salute? Queste sono le 10 domande fondamentali che Repubblica pone al Presidente del Consiglio. Quanto sia interessato Berlusconi, poi magari fa male, non lo so, sta a voi giudicare, chiamatemi. Quanto Berlusconi sia interessato all'esercizio di Repubblica lo dimostrano alcuni interventi dello stesso Berlusconi. Prendiamone uno, per esempio, ieri alla conferenza dell'ANCE, che è l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili. Giornata molto piena, io so che qualche birichino tra voi avrà pensato che io ero occupato con le veline, invece ero in Parlamento per il voto finale sul cosiddetto pacchetto, un brutto nome ma si dice così, sicurezza. Oppure le veline minorenni citate ancora oggi. Noi abbiamo già 10 milioni di euro stanziati in 2 anni, ai quali si potrà accedere attraverso bando di concorso iscrivendosi ad un apposito registro che noi stiamo andando a costituire. Si possono iscrivere anche le veline? Si possono iscrivere preferibilmente minorenni. Vado anch'io, naturalmente sono obbligato ad andarci, per coerenza. Va bene. Ministro Meloni un po' in imbarazzo, ma insomma il senso della battuta di Berlusconi l'avete capito. Dove andiamo? Primo ascoltatore della serata, Giorgio da Torino, in onore di Torino, perché siamo qui in diretta alla Fiera del Libro. Prego, Giorgio. Ah, benissimo. No, dico che tutte le volte che arriva un barcone, non capita da noi. Dove abita lei a Torino? Giorgio, dove abita a Torino lei? Mi ascolti un attimo, dove abita Torino? Sul Po. Sul Po. Lontano dalla Fiera del Libro? No, abbastanza vicino. No. Anche se adesso sto tornando a casa in un casino bestiale. Mi venga a trovare più tardi, se ha tempo. Ah, senz'altro, farò un salto sicuramente. Prima delle 20:45, poi scappo, Come? Prima delle 9:15 magari, oppure fino alle 9. Vabbè, faccia lei, se ha tempo, se non c'ha nessuno, se non ha nessuno a casa che l'aspetta, insomma, se non ha impegni. Sì, no, ma sicuramente farò un salto. Niente, volevo intervenire appunto sulla questione dell'immigrazione. Dico, secondo me è una cosa veramente vergognosa che ogni volta che arriva un barcone si scateni un putiferio. Cioè, secondo me il problema va risolto a monte. Allora, in Libia ci sono 2,5 milioni di persone che aspettano di venire in Europa. Allora, noi possiamo permetterci di avere 2,5 milioni di persone in Italia? No, che... Pronto? Pronto? La sento, dica. Ah sì, 2,5 milioni di persone in Italia, possiamo sostenerle? Allora, se la risposta è sì, ma andiamo a prenderli con a un certo punto i traghetti. Se la risposta è no, siamo obbligati a respingere, perché non è che ne accogliamo 280 e ci mettiamo a posto la coscienza. Qualcuno sostiene che non è questo il problema, che in realtà sono molti meno, che il problema dell'immigrazione in Italia non è poi così drammatico, che queste persone hanno, una parte di queste persone hanno diritto a venire qua perché sono perseguitati, non possiamo respingerli, insomma questo è il succo del ragionamento. Ma lei torna oppure attraverso un deserto, no? Non lo faccia per fare un'escursione, quindi io penso che su 2,5 milioni di persone che saranno là, saranno 2 milioni, saranno 1,5 milioni, non lo so, ma comunque sono tanti, no? Sicuramente il 90% avrà il diritto allo status di rifugiato, questo mi sembra una roba naturale. No, questo non penso, insomma, che quanto lei ha detto, che percentuale ha dato lei? No, solo dico il 90%, ci saranno... Non credo proprio che il 90% possa essere considerato rifugiato politico. Comunque, insomma, secondo lei sono troppe queste persone, dobbiamo agire. Insomma, lei è d'accordo allora con questa politica dei rimpatri, i controlli in acqua internazionale? Non possiamo permetterci 2 milioni di persone che a un certo punto vengono. Giorgio, con me sfonda una porta aperta, ma mica perché sono filo governativo, semplicemente perché sono delle cose talmente scontate che non ci sarebbe nemmeno da discutere. In altri paesi non è che si fanno discussioni assurde, abbiamo respinto questi, li mandiamo a morire. Si attuano delle politiche, tutte quanti le condividono, maggioranza, opposizione. E non c'è discussione. In Italia si parla di xenofobia, di cose che non esistono, rispetto al controllo del territorio, rispetto al fatto che comunque i confini devono essere in qualche modo difesi, protetti, insomma. La ringrazio. Pietro da Milano, buonasera. Buonasera Crociani. Io ho chiamato per parlare di un argomento diverso, per parlare dei manifesti elettorali affissi abusivamente in tutte le città ogni tornata elettorale. Beh, ogni tornata elettorale no, perché da quando non ci sono più le preferenze, queste cose qui, ce ne sono molti meno di manifesti elettorali, devo dire la verità. Sono ricomparsi un po' adesso per le elezioni europee, è vero, perché ci sono le preferenze, allora si cominciano a vedere. E insomma, cosa ci vuole dire su questi cartelloni? L'abusivismo? Ma sì, cioè... Beh, ci sono degli spazi appositi naturalmente in ogni città, questo lei lo sa. Sarebbe degli spazi appositi. Invece certo. Poi c'è qualcuno che sgarra e... ovunque. Sì. E diciamo, e poi ai comuni costa un sacco di soldi, o comunque molti soldi, poi togliere questi manifesti. Inoltre vengono date le multe e queste multe non sono mai pagate, perché ogni anno passano dei condoni e dunque... Questo è grave. No, adesso questo non lo dico ironicamente, è grave che naturalmente ci possa essere impunità da questo punto di vista. Per carità, non mi sembra un problema fondamentale, io lo dico con sincerità, Pietro, è quello dei manifesti abusivi nelle città durante le tornate elettorali, però è giusto che queste cose vengano sanzionate adeguatamente. La ringrazio. Antonio ci chiama da Napoli, buonasera. Buonasera, Giuseppe. Dica. Mi sente? La sento molto bene. Allora, sì. Io volevo dire, in merito alle cosiddette ronde che si pensa di istituire, credo che debbano essere poi supportate dalle forze dell'ordine regolari, perché se queste ronde girano per fare da deterrente, è ovvio che praticamente se vedono commettere un qualsiasi reato dovranno chiamare le forze dell'ordine. Io non so se l'hai mai provato a chiamare dopo le 10 di sera. Per fortuna non ho mai avuto, non mi è mai successo, non mi è mai capitato di chiamare, per riuscire, non me lo ricordo almeno. E per avere un intervento occorre a volte mezz'ora, nel frattempo il reato si è compiuto, si è concluso, e che faranno? Adesso questa è la sua esperienza, Antonio, questa è la sua esperienza, non è che per tutti è la stessa cosa, magari qualcuno chiama e rispondono subito, arrivano pure subito. Ma che fanno, intervengono loro? No, guardi Antonio, la ringrazio di questo intervento, ma io ribadisco quello che ho già detto nelle settimane passate. A me questa storia delle ronde, che pure non deve essere esagerata, perché non è che arriva, come dice, cos'è che ha detto Saramago, poi ve lo ridico, adesso non mi trovo più il foglio qui davanti. Le ronde sì, per picchiare i clandestini, i migranti, o per non so quale altra nefandezza attribuiva alle ronde Saramago, non bisogna esagerare, ma non servono assolutamente a nulla, diciamo la verità, per cui istituzionalizzarle è persino peggio. Gianfranco da Pesaro, buonasera. Buonasera dottor Cruciani. Senta, io la chiamo, premetto che sono uno ascoltatore abbastanza assiduo e quando posso l'ascolto, non sempre mi trovo d'accordo con le sue idee, ma questo non ha importanza. Meno male. Chiamo in seguito all'intervento che abbiamo potuto ascoltare ieri in trasmissione di Dario Fo e anche in merito alla discussione che si fa ultimamente del problema degli immigrati. Ma secondo me alle volte si perde un pochettino il senso. Alcuni ascoltatori hanno detto che anche noi siamo stati degli emigranti e quindi dovremmo avere il senso dell'accoglienza di queste persone. Io dico sì, è vero che gli italiani sono stati emigranti, però quando ad esempio ieri si parlava degli italiani in Belgio, forse non tutti si ricordano che gli italiani quando andavano in Belgio partivano dall'Italia sotto contratto, perché l'Italia aveva un contratto con il Belgio dove l'Italia forniva mano d'opera e il Belgio forniva all'Italia energia, sotto forma di carbone ovviamente. Quindi era un'immigrazione comunque sia controllata. Sì, ma poi questi paragoni che si fanno continuamente tra la nostra immigrazione del Novecento, di fine Ottocento e altre cose ancora degli anni 50 in altri paesi, il modo in cui siamo stati trattati e il modo in cui alcuni vorrebbero trattare oggi gli immigrati, mi sembra davvero fuorviante. Noi, un popolo di migranti, dovremmo allora, ma che c'entra, che significa? Sono due situazioni e due contesti storici completamente diversi. Vuole aggiungere qualcosa? Sì, volevo semplicemente rispondere un secondo anche all'intervento di Dario Fo, fra l'altro persona che io stimo molto a livello professionale, perché secondo me è un ottimo personaggio di teatro. Però prima volevo fargli un appunto, in quanto non è riuscito a rispondere alla sua semplice domanda quando lei le ha chiesto una risoluzione al problema. No, in realtà poi alla fine una risposta c'è, lei si sbaglia su questo, una risposta c'è, perché di fronte ad una semplice questione, lei cosa farebbe di fronte all'arrivo di questi barconi, eccetera, eccetera? Prima ha detto che il problema non è questo, i problemi sono altri, non ce ne dovremmo occupare, c'è troppa propaganda, eccetera, eccetera. Poi però ha risposto, io li farei entrare, perché alla fine l'unica risposta, se uno non vuole dire, bisogna respingere, riportarli da dove vengono, accertandosi di alcune cose, l'unica risposta possibile è dobbiamo accoglierli tutti, cioè accoglierli... si devono fare arrivare sulle nostre coste. La ringrazio. TG3, titoli. Prodotto interno lordo in caduta libera, mai così male da 30 anni in Europa. Intanto Marchionne annuncia pronto ad incontrare governo e sindacati. Berlusconi, vedo segnali di miglioramento, dietro la crisi fattori psicologici, per questo dobbiamo diffondere fiducia e ottimismo. Questa crisi non passa da sola, dice Franceschini, servono interventi per chi perde il lavoro, ma il governo se ne sta con le mani in mano. Due stati in pace, uno israeliano e l'altro palestinese, e questa è la soluzione al conflitto medio orientale, lo ha ribadito il Papa lasciando la Terra Santa. La nuova influenza colpisce la grande mela, 3 scuole chiuse, grave un professore, Obama nomina un responsabile per far fronte agli oltre 4.700 casi. Peggio di un carcere, condizioni disumane, denunciano gli immigrati del centro di Ponte Galeria a Roma, l'ONU durissima, stoppa i respingimenti. Incappucciati incendiano un autobus al centro di Napoli, a fuoco anche alcuni cassonetti, il raid rivendicato da un gruppo di disoccupati. La musica vietata ai Teheran, a Cannes il film denuncia di Bango Badi, fidanzato della giornalista appena rilasciata, e al TG3 dice non posso più tornare in Iran. Avete sentito uno dei titoli del TG3, l'ONU durissima, stop ai respingimenti, Sky TG24. L'italiano crolla a meno 5,9%, il dato peggiore da 30 anni. Berlusconi vede segnali positivi, duro il Partito Democratico, governo immobile e ottimista. Marchionne invita governo e sindacati, un tavolo per fare il punto sui piani Fiat. Nuovo stop dell'ONU ai respingimenti, Frattini chiede più impegno all'Europa. Via libera del governo, la riforma Brunetta, meritocrazia entro l'estate. Il Papa lascia Israele con parole di speranza, pace possibile ma senza più muri. L'ombra della mafia su un duplice omicidio nel palermitano, si teme una nuova faida. Tensione a Napoli, tre incappucciati sequestrano e danno fuoco a un autobus. Studente ghanese pestato a Parma, ha chiesto rinvio a giudizio per 10 vigili. Formula 1, Mosley non cede ai ribelli, Ferrari pronta a portarlo in tribunale. Va bene, i titoli di Sky TG24, numero di telefono per chiamarci 800 24 00 24, ci sono già moltissimi ascoltatori in linea e allora voglio farvi riascoltare però quello che nel 97 disse Silvio Berlusconi quando andò in Puglia, era il 97 per carità, c'era stato uno speramento di una nave, l'uccisione di diverse persone, c'erano dei superstiti, Berlusconi si catapultò, era all'epoca all'opposizione in Puglia per accogliere queste persone e disse delle cose molto critiche nei confronti del governo di allora, di come stava gestendo la questione degli immigrati. Riascoltiamo. Vorrei che tutti gli italiani avessero avuto l'incontro che adesso ho avuto io con questa gente che ha perso tre figli, che ha perso la moglie, che sperava di venire qui a trovare un paese libero, democratico, in cui poter lavorare, in cui potersi affermare. Ecco, queste sono cose che noi non possiamo permettere che succedano più nel nostro paese. Vi chiedo scusa. Un pomeriggio in mezzo ai profughi scampati alla tragedia dell'altra sera nel basso Adriatico. Quando l'emozione lascia il posto al ragionamento politico, l'affondo contro chi ha preso la decisione del pattugliamento nel basso Adriatico, da Berlusconi definita una macchia da pulire. Una decisione così azzardata, una decisione forse indegna di un paese come l'Italia che ha una grande tradizione di solidarietà, di accoglienza. Questo Berlusconi nel 97. Tra l'altro oggi, andando a riprendere delle dichiarazioni stampa dell'epoca, Gian Antonio Stella scrive sul Corriere della Sera, scrive, riporta alcune frasi dette da Berlusconi, oltre quelle che avete già sentito. «Ho studiato diritto della navigazione», disse all'epoca il capo dell'opposizione. «So che nessuno può fermare navi civili in acque non territoriali. Non è previsto assolutamente un diritto di questo genere da parte di nessuno Stato. Se avessi sentito parlare di blocco navale, avrei subito drizzato le antenne. Credo che l'Italia», aggiunse Berlusconi, «non possa accettare di dare al mondo l'immagine di chi butta a mare qualcuno che fugge da un paese vicino, temendo per la sua vita, cercando salvezza e scampo in un paese che ritiene amico. Il nostro dovere è quello di dare temporaneo accoglimento a chi si trova in queste condizioni». Questo disse Berlusconi, evidentemente con parole, con accenti molto diversi, come diverso era il periodo. 800 24 00 24, ospite questa mattina da Alessandro Milan a 24 mattino, Enrico Mentana. Enrico Mentana che nei giorni scorsi, come sapete, ha fatto un'intervista, anzi c'è stata un'anticipazione di un libro che sarà presto nelle librerie a Vanity Fair, in cui ha rivelato una lettera scritta con Falonieri pochi giorni dopo le elezioni del 2008. Ci fu una riunione tra i capi giornalistici di Mediaset e Mentana rimase scosso da questa riunione, da questa cena a cui partecipò, tanto da definire ormai la sua ex azienda come un comitato elettorale. Mentana. Era una riunione che io pensavo una normale riunione operativa, in cui a lungo si parlò soltanto invece di il fatto che avendo vinto Berlusconi allora le cose cambiavano in meglio per il gruppo, insomma tutto quello che poi invece di raccontare io ho ritenuto giusto riassumere o ben identificare con una lettera privata che ho scritto quella notte stessa al presidente di Mediaset. Il libro, come sapete, si chiama Passionaccia o La Passionaccia e appunto sentiamo Mentana sulla lettera a Confalonieri, poi ognuno si fa la sua idea naturalmente. Ho voluto dare il senso, il termometro di com'era la mia percezione allora, con un atto che è inequivocabile, una lettera privata mandata direttamente a Confalonieri. Non è, ci sono quelli che vanno in giro a fare i martiri. No, ecco, io non ho fatto nessun martire, ho raccontato le cose come sono successe e ho pubblicato quella lettera anche perché quella lettera dimostra anche il contrario, ovvero che fino a quel momento io pensavo e ritenevo a ragione di essere in un gruppo polifonico, in cui si poteva far tutto, c'era spazio per tutti, come dire, l'articolazione dei prodotti era garantita in tutti i sensi. Non dimentichiamo che stiamo parlando della stessa Mediaset che mi ha permesso di fare per 13 anni il direttore del TG5, in cui lo garantisco, lo scrivo nel libro, ma penso sia abbastanza risaputo, non è che sono stato a ascoltare grandi direttive. Ancora Mentana questa mattina, perché sicuramente ci sono spunti di riflessione. Mentana. Io credo che se tutte le persone che hanno responsabilità nel settore dell'informazione di un'azienda così ampia, no, che produce tre telegiornali, tante rubriche, se tutti professano al momento del voto la stessa opzione, insomma, questa è una cosa un po' diversa evidentemente, perché evidentemente i prodotti sono tutti quanti rivolti allo stesso pubblico. Non è certo un peccato, ad esempio, avere le stesse idee della maggioranza, pressoché assoluta, degli italiani, no? sarebbe ridicolo dire il contrario. Ecco, però se è tutto così, poi succede che appunto da cronisti, da osservatori della realtà si diventa un'altra cosa a lungo andare. Il pensiero unico che adesso regnerebbe a Mediaset secondo Mentana, 800 24 00 24, Repubblica gli pone 10 domande, le abbiamo già enunciate: quando ha conosciuto il padre di Noemi Letizia, quante volte ha avuto modo di incontrare Noemi Letizia e dove. Sono domande che Repubblica rivolge al Presidente del Consiglio, perché pensa che queste siano questioni politiche molto importanti. E io voglio sapere da voi, ma davvero pensate che queste siano questioni politiche importanti? Non lo sto dicendo ironicamente, è una domanda, cerco risposte da voi. Veronica Lario ha detto che lei frequenta minorenni, ce ne sono altre che incontra o alleva? Sua moglie dice che non sta bene e che andrebbe aiutato, quali sono le sue condizioni di salute? Sono alcune delle domande che vengono poste da Repubblica a Berlusconi. Berlusconi se ne interessa parecchio, è parecchio disturbato da queste domande, almeno così sembra, tanto che così ieri alla conferenza dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili. Giornata molto piena, io so che qualche birichino tra voi avrà pensato che io ero occupato con le veline, invece ero in Parlamento per il voto finale sul cosiddetto pacchetto, un brutto nome ma si dice così, sicurezza. Non risparmia certamente battute, nemmeno in presenza del ministro Meloni oggi. Noi abbiamo già 10 milioni di euro stanziati in 2 anni, ai quali si potrà accedere attraverso bando di concorso iscrivendosi ad un apposito registro che noi stiamo andando a costituire. Si possono iscrivere anche le veline? Si possono iscrivere... Preferibilmente minorenni. Ci vado anch'io, naturalmente, sono obbligato ad andarci, per coerenza. Va bene. Imbarazzatissima la Meloni, per carità, lo posso immaginare, anche se non abbiamo potuto vedere la faccia, ve la siete immaginata tutti. Subito ascoltatori, dunque Davide da Venezia, buonasera, anzi no, prima chi c'era? C'era un altro, Paolo dalla provincia di Verona, arrivo subito, Davide, Paolo. Sì, buonasera, complimenti per la trasmissione. Pronto? Dica pure. Ah, ecco, io volevo prendere lo spunto dalla questione sollevata da Repubblica anche in questi giorni. Premetto, non so se possa interessare gli italiani tutti o in parte, se sia giusta o sbagliata. Dico solo che personalmente, come cittadino, come comune cittadino, mi sento, diciamo, un po' infastidito da questa posizione del nostro Presidente del Consiglio, no? Mi aspetterei che la statura morale, che la carica istituzionale che ricopre comporta nello scenario nazionale e internazionale, meriti un atteggiamento che reputo irreprensibile sotto il profilo formale, indipendentemente poi da certe questioni che siano fondate o meno. Prendo lo spunto anche dall'imbarazzo che si coglieva prima. A cosa si riferisce lei in particolare? Al cucù alla Merkel, alle corna, al cucù alla Merkel, alle battute nei confronti di Sarkozy, alle battute che avete fatto ascoltare prima, che hanno imbarazzato anche il ministro Meloni, no? Sono un atteggiamento di superficialità che va bene tra ragazzetti quando stanno giocando all'oratorio. Reputo che il primo ministro dovrebbe avere un atteggiamento che non si presti poi, no, ad alimentare dubbi, già ce ne sono più di uno. Non so se lui intende forse sdrammatizzare, ma ritengo personalmente che non faccia altro che alimentare quei più o meno forti sospetti che già ci sono. Ecco, è come cittadino. Sì, però Paolo, le posso dire una cosa, adesso poi la lascio proseguire, per carità. Si può discutere naturalmente di quello che lei sta dicendo, ci sono cose molto ragionevoli nei suoi nelle sue parole, però lei in questo modo vuole eliminare Berlusconi, cioè Berlusconi è fatto in questo modo. Io credo che continuare a polemizzare su questo tipo di atteggiamenti dia a Berlusconi solo un grandissimo vantaggio. Poi a lei può non piacere che uno faccia le corna, che faccia cucù, che faccia le battute alla Meloni. A proposito della battuta con la Meloni, la vogliamo riascoltare, Paolo, un attimo solo, eh? Noi abbiamo già 10 milioni di euro stanziati in 2 anni, ai quali si potrà accedere attraverso bando di concorso iscrivendosi ad un apposito registro che noi stiamo andando a costituire. Si possono iscrivere anche le veline? Si possono iscrivere... Preferibilmente minorenni. Vado anch'io, naturalmente, sono obbligato ad andarci, per coerenza. Va bene. Berlusconi insiste un po' troppo su questa storia delle veline minorenni e forse ho sbagliato prima. Le domande poste da Repubblica, le 10 domande poste da Repubblica, non è che lo lasciano poi così indifferente. Qualche fastidio ce l'ha, eh. Paolo, prego. Sì, concluda. Sì, immagino. Ecco, però al di là delle veline di per sé, no, che sono una componente, ma probabilmente ha ragione lei, no? Berlusconi è fatto così e probabilmente ha anche ragione visto il consenso che poi riscuote. Personalmente ritengo che un leader politico dovrebbe così ottenere i propri voti sulle proprie capacità, che reputo lui abbia, perché una persona di successo non costruisce quello che lui ha costruito. Non è che il consenso lo ottenga solamente attraverso queste battute, adesso non esageriamo, insomma, adesso, al di là delle critiche che si possono fare e delle preferenze politiche che uno possa avere, dire che il consenso di Berlusconi deriva solamente da questo suo essere istrionico, sui generis, assolutamente anomalo rispetto a tutti gli altri governanti europei e forse mondiali, cioè non dipende solo da questo, credo, no? Li riconosco senz'altro la capacità. Lui è un ottimo comunicatore, per cui non fa niente che non sia calcolato, secondo me. È uno sì, che però tiene... questa storia del comunicatore si diceva già 15 anni fa. È un ottimo comunicatore, però non sa fare il politico. D'accordo, però... Non mi sembra un po' un'analisi un po' superata? Un'analisi un po' superata, quella è un grande comunicatore ma non è un bravo politico, insomma. Io ho sentito queste discussioni sul comunicatore e sul politico, mi ricordo intorno all'inizio del 94, ecco, insomma, quando... Però ecco, anche lì l'ottimo quando comunicatore tutto è opinabile, cioè se facessi io le battute, pongo rovescio la questione un attimo, se avessi fatto io le battute che ha fatto lui oggi alla Meloni, come sarebbe finita? Probabilmente mi sarebbe caduto... Allora, c'è una piccola differenza, che lei non è Berlusconi, naturalmente. Come beh, lo evidente, sono io. La ringrazio. Davide da Venezia, eccoci qui, mi scusi. Dica. Sì, buonasera. Ma riguardo questa condanna durissima da parte degli esponenti dell'ONU, oppure anche l'opinione di Dario Fo, cioè, io dico che a chiacchiere questi sono dei campioni nel risolvere la questione. Facciamo entrare tutti. Solamente che non hanno tenuto in considerazione il fatto che noi qui non siamo in Danimarca o in Svezia, cioè, questa è l'Italia, che è un paese difficilissimo, in cui gli agenti di polizia si devono pagare in anticipo di tasca propria le trasferte. Oppure Calabria, negli ultimi 10 anni ci sono stati 500 attentati ad esponenti dei comuni, delle regioni, per farli fuori, perché era gente che si opponeva. E cosa c'entra però tutto questo con la questione degli immigrati? E allora tutte queste cose dimostrano che noi non siamo un paese in grado di accogliere queste ondate di persone. Non è così, mi scusi Davide, io le contesto questo ragionamento. Se siccome abbiamo tanti problemi al nostro interno eccetera, non possiamo accogliere le persone, a parte che tutti i dati dimostrano che abbiamo sempre più bisogno di un certo tipo di manodopera, ma anche di una certa immigrazione tra virgolette intellettuale. Questo non è assolutamente vero, le aziende continuano a richiedere persone che vengono dall'estero e anche da paesi di quello che una volta si chiamava il terzo mondo, per cui questo non è assolutamente così. Naturalmente una cosa è la gestione di un'immigrazione regolare, una cosa è il blocco dell'immigrazione clandestina, sono due discorsi diversi, ma non è vero che non abbiamo bisogno di persone che vengono nel nostro paese alla... Perché guardi che sì, io ho capito, Davide, lei ha detto non possiamo più accogliere nessuno. Non è vero, al contrario, possiamo accogliere un sacco di gente. Perché... Mi sono sbagliato allora, ho sbagliato le parole. Però e allora chi è che non possiamo accogliere, secondo me? È difficile, che già di per sé ha dei grossissimi problemi. E quindi aspettarsi che l'Italia sia in grado di regolamentare questo afflusso cioè è un'utopia, ha capito? E glielo dico. Ma non lo so, io uno ho la speranza. Sì, l'Australia adotta delle politiche durissime. Ho lavorato in Svizzera e ho visto come si fanno bene le cose. E glielo dico che l'Italia non è un paese da Unione Europea, per come vanno le cose. No, ma Davide, adesso stiamo allargando il discorso. La ringrazio di aver citato anche questi paesi che hanno realtà completamente diverse dalla nostra. Soprattutto l'Australia, naturalmente, è una cultura, una storia soprattutto di rapporti con l'immigrazione completamente diverse. E la notizia della scomparsa di Susanna Agnelli è certamente una notizia importante, è una notizia che colpisce la città soprattutto in cui ci troviamo in questo momento, che è Torino, perché siamo qui in diretta alla Fiera del Libro di Torino. La ringrazio, stavamo parlando con Davide, andiamo a Bologna. Luigi. Buonasera. Prego. Pronto? Mi sente? La sento molto bene. Eccomi, scusi. No, volevo intervenire sul discorso di Dario Fo di ieri sera, che mi ha lasciato abbastanza sconcertato, non tanto per i contenuti in sé, che sono discutibili, si può discutere insomma sulla soluzione che lui ha fornito alla fine dell'intervista, ma piuttosto per l'atteggiamento, io dico, perché a mio avviso è un atteggiamento, diciamo, che è stato per me emblematico di un certo, diciamo, modo di risolvere questi problemi di una certa sinistra, che però a mio avviso è uno dei motivi per cui, diciamo, la Lega Nord ha preso una serie molti più voti della sinistra, specialmente in certe fasce sociali. Ecco, perché dire che il fenomeno dell'immigrazione è un problema secondario o trascurabile, a mio avviso non è corretto, cioè la politica deve risolvere tutti i problemi, dai più importanti, che in questo momento è sicuramente sono i problemi economici, che sono sicuramente. No, ma guarda, dire che i problemi sono altri è una tipica malattia italiana. Insomma, ieri Dario Fo ha dato una chiara dimostrazione. Ha detto: ma insomma, il problema dell'immigrazione non è un problema centrale, ci sono altri problemi, la crisi economica, la disoccupazione, ma che c'entra? Con questo ragionamento ognuno mette le sue priorità, e chi decide le priorità? Prego, concluda se vuole. No, sì, volevo solo dire che va benissimo che ci siano delle priorità, a mio avviso non è una cosa sbagliata questa in sé, però priorità non vuol dire non affrontare i problemi, cioè priorità vuol dire comunque ci sarà qualche persona nel governo, o un ministro, o dei sottosegretari, o delle persone, non lo so, che questo problema devono affrontarlo. Poi probabilmente Tremonti si occuperà solamente dei problemi economici, ovviamente, perché lui è ministro dell'economia, però problemi legati all'immigrazione, alla gestione di questo fenomeno complesso non si possono ovviamente ignorare. Proprio questo atteggiamento, secondo me, è proprio sbagliato, cioè l'atteggiamento a me dispiace, perché io poi insomma Dario Fo lo stimo, però è l'atteggiamento tipico di quelle persone che hanno, secondo me, causato la perdita di consenso del centrosinistra. Ah sì, assolutamente, anche se poi Dario Fo non è che sia etichettabile come personaggio rappresentativo del centrosinistra, tutt'altro, insomma, di una certa sinistra forse, non certo del centrosinistra, certamente non del Partito Democratico. Luigi, la ringrazio molto. Paolo da Milano, buonasera. Buonasera. Buonasera Cruciani, mi sente? Dica Paolo, dica, la sento. Non la sentivo, senta, allora io la sento tutte le sere e noi abbiamo parlato in questa settimana di chi si deve sedere nei tram a Milano, di quante vallette ci sono in giro intorno a Berlusconi. Allora, io volevo raccontarle quello che mi è successo in questa settimana. Per la prima volta, io sono un piccolo imprenditore, proprio un piccolo imprenditore, per la prima volta in 40 anni di attività della mia azienda, la mia banca non ha girato gli stipendi ai dipendenti per 2.000 euro di sconfino. È successo per la prima volta. E normalmente lo sconfino entro il 10 di ogni mese viene richiuso dai pagamenti dei clienti. Allora continuiamo a parlare di quello che vogliamo, perché lei il palinsesto lo fa come vuole lei, ma una preghiera: raccogliere le testimonianze delle persone che hanno dei grossi problemi oggi con le banche, non sarebbe poi così male, perché le banche si sono parate il fondello con il governo ha stanziato delle procedure per le banche, ma noi non ci siamo parati tanto, anzi c'è un irrigidimento e non ne sento parlare di veline, sento parlare di autobus, di tram, di tante cose, tranne una cosa fondamentale che non è la mia. È quella che credo che blocchi un attimino anche l'economia generale. No, ma guardi, lei ha ragione, ci sono decine e decine, se non migliaia di imprese che hanno problemi con le banche, i giornali, compreso il Sole 24 Ore, ma non solo il Sole 24 Ore, fra poco abbiamo il direttore di Libero, se ne sono occupati a lungo, per cui perché lei pensa che tutta l'attenzione dell'informazione si concentri sulle vicende dell'immigrazione? Si va come al solito a ondate, ogni tanto ci sono. Non ho detto l'immigrazione, quello è un problema grave, non ho detto quello, ho detto detto gli autobus. Vabbè, insomma, quello è un argomento che poi va esaurendosi anche quello, magari a un certo punto ne spunta un altro. Insomma, va così nell'informazione, non c'è niente di cui stupirsi. I problemi che lei, di cui lei ci parla, che sono quelli quotidiani, di chi ha a che fare con le banche, le imprese, eccetera. A parte che noi ne parliamo tantissimo, insomma, in altre trasmissioni. Poi lei mi dà un suggerimento, perché non raccoglie le testimonianze di persone che hanno difficoltà con le banche? Cioè, può darsi che si debba fare questo, ma insomma non sfuggiamo a nessun discorso. Se vuole introdurlo lei non c'è problema. Il direttore di Libero, Vittorio Feltri, buonasera. Buonasera. Buonasera direttore, senta, le chiedo una cosa. Lei col suo giornale sicuramente sostiene alcuni dei provvedimenti del governo sull'immigrazione clandestina, in primis il respingimento dei barconi, quello che sta avvenendo in questi giorni. Il reato di immigrazione clandestina, una cosa su cui si discute, l'altro giorno ne parlavo col professor Ricolfi, che certamente non ha un atteggiamento prevenuto nei confronti del governo. Ora, introdurre un reato di questo tipo, secondo lei serve per davvero oppure no? Perché Ricolfi ci diceva, ma insomma non ci sono pene annesse a questo reato, sembra più una grida manzoniana che non una cosa poi efficace per contrastare l'immigrazione clandestina. Sto parlando dell'introduzione del reato di immigrazione clandestina. Chiaro, prego. Chiaro. Io per quello che ne so, ho ascoltato, ho letto, il reato di clandestinità consentirebbe l'espulsione immediata, cosa che adesso non può avvenire, se non tramite un foglio di via che poi spesso rimane solamente un pezzo di carta, nel senso che l'immigrato clandestino si mette in tasca il foglio di via e sparisce e non rientra in patria, mentre con il reato di clandestinità sarebbe possibile. Io poi ho sentito questa cosa dal ministro dell'interno Maroni, dicevo con l'espulsione scritta è possibile prendere il clandestino e riportarlo fisicamente al suo paese. Questa non mi sembra una cosa del tutto inutile. Poi è chiaro che un provvedimento di questo tipo non va tanto giudicato sulla carta, bisognerà vedere mesi quali saranno i risultati. Io francamente non riesco a fare delle previsioni, perché finora sono stati fatti molti tentativi, ma le cose sono andate sempre maluccio, visti i risultati. Esatto, la Bossi-Fini sembrava una cosa meravigliosa, diciamo, infatti, sulla carta, ogni legge sulla carta sembra una cosa stupenda e poi invece... Però come si fa a dire prima? Io sinceramente non so, devo verificare l'efficacia di questo provvedimento, ma criticarlo ancora prima che venga sperimentato e si possa vedere come funziona mi sembra un pregiudizio più che altro. Senta direttore, qualcuno ha visto nell'atteggiamento che Berlusconi aveva nel 1997, oggi c'è un articolo anche di Gianantonio Stella sul Corriere della Sera, e l'atteggiamento che oggi ha il governo presieduto da Berlusconi, una evidente contraddizione. Vogliamo, le faccio riascoltare un servizio del TG1 dell'epoca in cui ci sono le lacrime di Berlusconi davanti ai barconi provenienti dall'Albania. Vorrei che tutti gli italiani avessero avuto l'incontro che adesso ho avuto io con questa gente che ha perso 3 figli, che ha perso la moglie, che sperava di venire qui a trovare un paese libero, democratico, in cui poter lavorare, in cui potersi affermare. Ecco, queste sono cose che noi non possiamo permettere che succedano più nel nostro paese. Vi chiedo scusa. Un pomeriggio in mezzo ai profughi scampati alla tragedia dell'altra sera nel Basso Adriatico. Quando l'emozione lascia il posto al ragionamento politico, l'affondo contro chi ha preso la decisione del pattugliamento nel basso Adriatico, da Berlusconi definita una macchia da pulire. Una decisione così azzardata, una decisione forse indegna di un paese come l'Italia, che ha una grande tradizione di solidarietà, di accoglienza. Ecco, direttore, naturalmente le situazioni sono molto diverse, lì c'era stato uno speronamento dei morti, eccetera, eccetera. Però sì, alcune più parole di alcune parole di Berlusconi sull'accoglimento, sul pattugliamento in mare, per carità, all'epoca la questione dell'immigrazione clandestina non era nemmeno a livello di opinione pubblica così sentita come oggi. Lei ci trova qualche contraddizione in quell'atteggiamento di Berlusconi rispetto a quello attuale, oppure no? Contraddizione esiste, perché se confrontiamo quella dichiarazione con i fatti di oggi è chiaro che c'è qualcosa che stride. Tuttavia la risposta l'ha già data lei, le condizioni sono molto mutate, l'immigrazione è continuata in modo selvaggio, quindi dobbiamo renderci conto di una cosa. Già 20 anni fa Martelli, ministro della giustizia, introdusse alcuni provvedimenti che poi furono approvati e sembravano una soluzione, e invece non si rivelò tale, anzi le cose continuarono come e peggio di prima, per cui si è arrivati ad un'altra legge, ad altri provvedimenti, e mi riferisco al turco napolitano, se non vado sì. errato. Poi un altro intervento con la Bossi-Fini, e tutti questi tentativi, forse perché troppo pallidi, non sono andati a buon fine. A questo punto era chiaro che si dovesse escogitare qualche cosa di più efficace. Mi auguro che almeno questa volta si ottenga qualcosa di più. Credo che se ne sia reso conto anche Berlusconi, non è possibile accogliere tutti quelli che arrivano, perché sono tanti, bisognerebbe e sarebbe anche possibile aiutare chi affronta il mare, come sappiamo, e arriva, ed è un miracolo se arriva sano e salvo nel nostro paese, e poi gli immigrati che arrivano in Italia andrebbero distribuiti secondo delle quote che si possono stabilire con dei criteri che sono tutti da discutere nei vari paesi d'Europa, ma non lasciare che sia sempre solo l'Italia ad arrangiarsi con questo dramma. Io mi rendo conto che l'immigrazione, anzi la migrazione dei popoli, non può essere arrestata, c'è sempre stata e ci sarà sempre, gli affamati vanno in cerca di un luogo dove possano se non altro sfamarsi, però bisogna governarlo questo fenomeno, e finora non siamo stati capaci di governarlo. Se oggi attraverso i provvedimenti di Maroni si otterrà qualche risultato, io credo che dovremmo essere, non dico contenti, anche perché a volte è antipaticissimo dover respingere qualcuno, anzi fa male al cuore prendere una imbarcazione stracolma di povera gente e ricondurla al porto di partenza. Però che cos'altro si può fare? A me piacerebbe che i critici di questi ultimi provvedimenti suggerissero delle soluzioni alternative, ma finora io non ne ho sentite. Anche perché poi la soluzione alternativa al no ai respingimenti credo che sia solamente facciamo arrivare tutti. La soluzione più logica e forse alla fine anche quella più onesta intellettualmente, no, da parte di chi si oppone ai respingimenti. Però bisognerebbe dirlo. Certo, bisognerebbe dirlo con franchezza. Le chiedo un'ultimissima cosa. Abbiamo sentito nei giorni scorsi delle cose dette e scritte, anzi, in un libro da Enrico Mentana, un libro che uscirà tra poco. Lei ha scritto qualche cosa nei giorni scorsi. Mentana parla di un comitato elettorale, cioè Mediaset si sarebbe sostanzialmente trasformata da un anno e mezzo, due a questa parte soprattutto, in un comitato elettorale a supporto di Berlusconi. Lei ha tentato anche, ho letto nei giorni scorsi, una riconciliazione non riuscita, pare, tra Confalonieri e Mentana. Infatti io ci ho provato, nel senso che quando avvenne l'incidente e Mentana si trovò dalla sera alla mattina senza un posto perché le sue dimissioni da direttore editoriale erano state accolte, ma addirittura estese, diciamo così, alla sua presenza a Mediaset. Io, siccome stimo molto Mentana, lo considero un grande giornalista televisivo, oltre che, mi permetto di dirlo, un amico, e allora ho fatto dei sondaggi e degli accertamenti, e intravista la possibilità di una rapacificazione, e ho suggerito a Mentana il modo migliore per arrivare a questo risultato, nel senso che ho detto a Mentana: senti, scrivi una lettera, spieghi le tue posizioni eccetera, però introduci una frase in cui ci siano delle scuse per aver sopravvalutato il fatto dal punto di vista giornalistico, alla luce anche dei risultati che poi ha ottenuto la messa in onda del Grande Fratello, perché nella sostanza poi questo è successo. Se non che Mentana, e poi c'era la questione ancora del comunicato all'Ansa, no? C'era, sì, la infatti, questione del comunicato all'Ansa, all'Ansa pubblicamente aveva dato le dimissioni. Sì. Mentana, in effetti, dopo che avevamo concordato questa cosa, mi ha scritto, è stato di parola, mi ha scritto una lettera, però nella lettera non c'era ombra di scuse, e pertanto non abbiamo ottenuto l'effetto sperato, ma questo era evidente. Io, mentre passavo la lettera e la mandavo a stampare, mi rendevo conto che non era sufficiente per ottenere un incontro chiarificatore e propedeutico, diciamo così, a una immissione di nuovo di Mentana nell'organico di Mediaset. Purtroppo le cose sono andate male. Io penso che se Mentana dice questa cosa, naturalmente sarà anche vera. Io non ho mai lavorato a Mediaset, quindi non so quale sia il clima in quell'azienda. Posso dire di aver fatto per 4 anni il direttore dopo Montanelli del giornale, e io da parte di Berlusconi non solo non ho mai ricevuto degli ordini, ma ho ricevuto pochissime telefonate in 4 anni. Si possono contare sulle dita di una mano, nelle quali cioè erano delle conversazioni così molto, molto cordiali. Il cavaliere si complimentava anche per la progressione, sì, commerciale, sì, del giornale, gli aumenti delle vendite, eccetera. Ma io non ho mai avuto problemi di questo tipo. Ho avuto qualche problema invece con il fratello Paolo, che è l'editore ufficiale del giornale, ma piccole incomprensioni che poi a un certo punto mi hanno portato a rinunciare a quella direzione, e sono stato io a dimettermi e nessuno mi ha imposto di farlo. Tutto qui, questa è la mia esperienza, al di là della quale non posso andare perché, ripeto, non ho una diretta conoscenza di quello che avviene all'interno di Mediaset. Bene, grazie direttore, buona serata. Buona serata. Subito i titoli dei TG, iniziamo con il TG5. Basta muri, guerre e terrorismo, la pace è possibile. Con una visita al Santo Sepolcro, concluso il viaggio del Papa in Terra Santa. Il nazismo, un regime senza Dio. PIL in calo del 5,9% nel primo trimestre. In Europa peggio la Germania. Il PD all'attacco. Berlusconi, dati attesi, ci sono segnali di ripresa. È morta a Roma all'età di 87 anni Susanna Agnelli, sorella dell'avvocato Agnelli, fu ministro degli esteri nel governo Dini ed era presidente di Teleton. Mobilitazione nel mondo per Aung San Suu Kyi, leader dell'opposizione in Birmania, tornata in carcere. Arrivata a Vienna dopo la liberazione in Iran, la giornalista Saberi. A Imperia muore dopo il trasporto in ospedale un bimbo di 17 mesi, sul corpo lividi e contusioni, indagati la madre e il convivente. Divieto di fumo per i minori di 16 anni con multe fino a 150 euro per i trasgressori. Entro l'estate è pronto un disegno di legge bipartisan. Si chiama Francesca e per vivere raccoglie gratta e vinci usati. Spesso vinco, dice. La gente non controlla bene e domani jackpot da 59 milioni di euro. Beh, insomma, fosse vera questa storia dei gratta e vinci usati, è una storia certamente straordinaria. 800 24 00 24, TG1. Istat, nei primi 3 mesi PIL in calo del 5,9%, mai così giù dall'80, male anche Germania, Inghilterra e Francia. Berlusconi, la crisi c'è ma la situazione va migliorando, io devo infondere fiducia, Franceschini, non basta, servono misure concrete. Il commissariato dell'ONU per i rifugiati chiede all'Italia di fermare i respingimenti, ma Maroni dice andremo avanti. Il Papa conclude il suo viaggio in Terra Santa, mai più muri, due stati per due popoli, condanna della Shoah. Agguato di mafia nel Palermitano, uccisi due uomini a colpi di lupara, le vittime erano pregiudicati e giravano armati. È morta a Roma Susanna Agnelli, la sorella dell'avvocato aveva 87 anni, era stata ministro degli esteri ed era presidente di Telethon. Va bene, torniamo in diretta, 800 24 0024, Novara Giuseppe, buonasera. Buonasera Cruciani, grazie per avermi dato la possibilità di partecipare alla sua trasmissione. Dunque, senta, io la chiamo per questo. Allora, per quanto riguarda il discorso degli immigrati, no? Visto che l'ONU ci bacchetta, no? Dico, a questo punto secondo me non è più un problema italiano, anzi non è mai stato solo un problema italiano, ma secondo me è sempre stato un problema internazionale lasciato gestire agli italiani, no? Quindi a questo punto, visto che ci prendiamo le bacchettate, mi sembra anche giusto che a livello internazionale si pensi io non li chiamerei immigrati o clandestini, cioè immigrati e basta, povera gente che magari in mezzo a loro ci saranno anche diciamo non tutti saranno bravi quelli che vengono su, no? E volenterosi e come posso dire volti al lavoro, ecco, no? Oppure a farsi una vita di lavoro e di soddisfazioni, no? Magari insomma ovviamente non tutti sono così, però comunque è povera gente e va sicuramente accolta. Deve essere un problema diciamo preso in mano a livello internazionale, non solo italiano. Questo volevo dire, basta. Va bene, la ringrazio. Dove andiamo? Andiamo a Pisa. Massimo, buonasera. Sì, buonasera Cruciani, salve. Dunque io volevo fare un intervento riguardo al suo quesito posto dall'altro ieri riguardo appunto all'intervento del Presidente Berlusconi sull'argomento dell'arrivo degli stranieri. Il commento che Berlusconi ha fatto 12 anni fa, secondo me, non poteva che essere quello che è stato 12 anni fa. È chiaro che al momento attuale, vista la situazione attuale che si è notevolmente aggravata, è chiaro che il commento di Berlusconi di oggi, indipendentemente dal governo che c'era 12 anni fa e il governo di oggi, ma non poteva che essere un commento più diciamo responsabile, perché chiaramente il fenomeno dell'immigrazione clandestina ha raggiunto dei livelli tali e non erano quelli di 12 anni fa. Quindi ecco, il Premier ha fatto l'intervento che ha fatto recente perché chiaramente ed è un intervento diverso, sembra un intervento opportunista, ma in realtà è un intervento diverso perché è chiaro che la situazione è notevolmente cambiata e diciamo, purtroppo è una situazione che va sempre più gestita, quindi forse occorre un attimo frenare un attimo per riorganizzarsi per poi riuscire a gestire meglio la ripresa degli arrivi ma regolamentati. Sì, ho capito Massimo, però una contraddizione, anche piccola se vogliamo, esiste in quelle parole, per carità. Ripeto, non è che sono passati 25 anni, sono passati 12 anni, per carità, ci fu uno speronamento, però le parole usate sui pattugliamenti sono significative, anche quelle venute fuori oggi dall'articolo di Gian Antonio Stella. Una contraddizione c'è, poi non è mica un dramma la contraddizione, viviamo di contraddizioni. La ringrazio. Arturo da Napoli, buonasera. Buonasera. Dica. Senta, io vedo queste situazioni, queste polemiche che si trascinano, ma è possibile che il governo non faccia mai un provvedimento che abbia una sua valenza, una sua validità? Io penso che l'opposizione deve prendere atto di essere opposizione e limitarsi a fare l'opposizione, non le polemiche. Perché, sì, guardi Arturo, naturalmente l'opposizione ha il diritto di opporsi e di fare tutte le polemiche che vuole, naturalmente. Il problema è che secondo me da un punto di vista politico sta commettendo in questo caso, nel caso dell'immigrazione, un errore micidiale, cioè un errore veramente micidiale. Cercando appunto di opporsi in tutti i modi anche a dei provvedimenti che sono assolutamente normali e per esempio la politica dei respingimenti era stata voluta anche dai governi di centrosinistra. Davvero non si capisce l'atteggiamento dell'opposizione, secondo me è un mezzo suicidio, anche visti i sondaggi sulle questioni che riguardano la sicurezza e l'immigrazione. E andiamo subito con gli ascoltatori che ci sono in onda. Danilo da Siena, buonasera. Buonasera. Allora, senta, io che non sono un filo Berlusconi. Pronto, mi sente? La sento pronto? Molto bene, Danilo. La sento. Adesso mi sente meglio? No, guardi che la sento benissimo io, la sentivo bene anche okay, prima. Okay. No, stavo dicendo che io che non sono un filo berlusconiano, il provvedimento dei respingimenti invece l'ho capito benissimo e l'ho compreso come un gesto di grande rispetto, perché fatti salvi i toni elettoralistici, fatti salvi i diritti di coloro che hanno diritto all'asilo politico, eccetera, non è possibile far entrare nel paese più persone di quelle che possiamo ospitare degnamente. Sarebbe come ospitare a casa propria, che ne so, 20 persone a cena quando si hanno soltanto 7-8 posti a sedere. Insomma, gli altri che fanno? Stanno in piedi, guardano. Da economista. Sì, però mi scusi, il problema dell'immigrazione non è un problema di posti, Cioè non è un problema di spazi, come qualcuno dice, non è un problema di sovraffollamento in Italia, non è questo, perché i numeri non ci dicono questo. Non vorrei fare il veleno a grippa, ma un organismo non può ingoiare un numero eccessivo di alimenti, e quindi in questo caso qual è il numero tollerabile, gestibile, eccetera? Io credo che lo stiamo raggiungendo, quindi non sarebbe prima di tutto rispettoso farli entrare liberamente. Scusi, come chi lo dice che lo stiamo raggiungendo, Danilo? Chi lo sostiene? Cifre. Guardi, glielo dico da due punti di vista privilegiati. Io lavoro nella pubblica amministrazione e vedo con mano che stiamo raggiungendo dei livelli critici di gestione da un punto di vista dei servizi sociali, sanitari, eccetera. Il punto comincia a essere critico. Glielo dico dal punto di vista privilegiato dell'ex carabiniere, comincia a diventare un problema difficilmente gestibile con le risorse che sono state messe in campo. Però al di là di questo, dico io, il provvedimento l'ho capito perfettamente, e ho capito perfettamente anche che, essendo sotto elezioni europee, amministrative, eccetera, i toni salgono. Da economista capisco meno altre cose, ad esempio, che ne so, il federalismo. Siamo l'unico esempio al mondo di un paese unitario che attua il federalismo, vuol dire se è attuato in Germania. Però, Danilo, mi scusi, questo è un altro discorso, adesso non vorrà mica affrontare qui la questione del federalismo. Restiamo all'immigrazione, ci ha detto la sua, la ringrazio. Voglio leggerle però quello che oggi Luca Ricolfi scrive sulla Stampa, perché è tornato sulla questione dell'immigrazione e ha parlato di numeri. Gli immigrati, scrive in una parte dell'articolo, poi andrebbe letto tutto naturalmente come al solito, gli immigrati, specie se clandestini, sono indubbiamente più pericolosi degli italiani, ma occupano solo un terzo dei posti in carcere e soprattutto non vengono dal mare. Gli ingressi con i barconi sono circa un settimo del totale degli ingressi o permanenze irregolari. Il respingimento in mare degli stranieri è senz'altro utile, ma è solo una piccola frazione del problema della criminalità in Italia, diciamo un 5%. Ricordo queste cifre non certo per svalutare l'azione del governo per minimizzare il ruolo della criminalità straniera in Italia. Contrastare gli sbarchi illegali e rendere possibili le identificazioni sono provvedimenti ragionevoli, anche per il loro potere deterrente. Secondo me Maroni ha fatto bene. Quello di cui dovremmo renderci conto, tuttavia, è che alla lotta contro il crimine mancano ancora i due tasselli fondamentali: una giustizia molto più efficiente, un piano di edilizia carceraria ben più incisivo di quello prospettato dal governo. E insomma, il punto è anche quello dell'edilizia carceraria e delle carceri, per carità. Cioè, mi sembra che sono punti fondamentali, e non si può ridurre la questione della sicurezza alla questione dell'immigrazione. Prima di presentarvi un ospite, andiamo a Milano da Luca. Luca, buonasera. Sì, buonasera, Cruciani. Vado bene, mi si sente? Sì, mi sembra di sì. Perfetto. Senta, no, il mio punto era questo, quello che avevo lasciato detto giù. Ho preso in particolare l'esempio perché è il più recente, l'estermazione di Salvini, no? Che è un paradosso, tutti, è ridicolo, guai, Milan. Ma perché costantemente queste cose vengono distorte dal reale significato che viene dato e anche dal modo in cui viene detto? L'esempio è questo: Salvini non ha detto riserviamo i posti, non è deficiente fino a questo punto, ha detto se va avanti così e basta vivere. Prego. Dicevo, nessuno ha detto che Salvini è deficiente, tutt'altro che deficiente Salvini. basta prendere la metropolitana a Milano, lui diceva tra 15-20 anni ci troveremo che bisognerà riservare i posti, così saranno così pochi, così è paradossale, sarà sbagliato. Sì, ho capito, guardi, noi l'abbiamo mandato, ho capito quello che dice lei, non ha detto voglio riservare, faccio un progetto, una proposta di legge per riservare dei posti ai milanesi, parlava di una situazione che si potrà verificare tra non so tra quanti anni, lui ha detto eccetera. Però insomma lei capisce bene che siccome la Lega ha sempre un linguaggio molto diretto, molto tranchant, poi non è che può fare quella che sta attenta all'esegesi esatta. Insomma, Salvini voleva fare una piccola provocazione, forse all'inizio non se ne è neppure reso conto. Quando metti in campo questi argomenti, i posti sugli autobus eccetera eccetera, alla fine poi viene fuori quello che viene fuori, non è che si può dire no, volevo dire, volevo fare un esempio, volevo spostarlo nel tempo, se siccome poi saremo costretti, insomma, non capisce Luca o no? Mi chiedo scusa, non era una difesa tanto per fare, perché intanto non è stato così, ma vale anche, non so, per le ronde, qualcuno le ha battezzate ronde, situazioni che esistono già da anni, volevano essere normate o regolarizzate, accettare sì o no, ma chiamarle ronde, poi diventano squadre, poi c'è chi effettivamente mette la divisa, cioè vengono distorte, sì, guardi, le cose. Da questo punto di vista, sì, ma da questo punto di vista lei ha ragione, spesso alcune cose vengono distorte, vengono esagerate, in questo caso, ripeto, la traduzione giornalistica, la sintesi giornalistica qual è stata? È stata Salvini vuole creare una sorta di apartheid, vuole tornare a un periodo di questo tipo perché vuole riservare negli autobus adesso dei posti ai milanesi. No, Salvini non ha detto questo, però lo ha immaginato in un futuro, diciamo, perché dice secondo lui che nel futuro ci saranno talmente tanti immigrati che bisogna riservare i posti ai milanesi. È comunque sbagliato e non ha senso porre le questioni in questo modo, secondo me, anche se solo per fare una provocazione. La ringrazio. Abbiamo un ospite che si chiama Gordiano Lupi, che ringrazio. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Eccoci qui, Gordiano Lupi è uno scrittore ed è il direttore editoriale delle edizioni Il Foglio Letterario, ma soprattutto è il traduttore di un libro che sarà presentato a Torino domani. A che ora, Lupi? Alle 13.30, con Omero Sciai ed Eric De Armas. Esatto, Omero Sciai è un giornalista che si occupa di America Latina per Repubblica. Il libro ha un autore, un'autrice che si chiama Ioani Sanchez, che doveva venire a Torino, però le è stato impedito dal regime cubano di venire a Torino, è così? Sì, è la terza volta che le impediscono l'uscita dalla sua terra. La prima volta per ritirare l'Ortega e Gasset dal quotidiano El País, doveva andare in Spagna e non ha potuto ritirare il premio. La seconda volta l'avevamo invitata... No? Sì, la seconda volta l'avevamo invitata a Pisa per la Fiera del Libro e internazionale l'avevamo invitata a Ferrara e non l'hanno lasciata andare. Questo è il terzo rifiuto che le viene fatto. I motivi non sono stati mai indicati. Sì, lei è il traduttore del libro Cuba Libre, Vivere e Scrivere a L'Avana. Leggo oggi sul Corriere della Sera: Ioani Sanchez è trattata dalle autorità dell'Avana come una pericolosa dissidente, anche se non è protagonista di alcun movimento politico alternativo al regime comunista. La Sanchez si limita a raccontare nel suo blog la vita quotidiana dei cubani della sua generazione, tormentata da limitazioni come il controllo ossessivo degli accessi a internet. In un post datato 10 maggio, sentite questa, Ioani Sanchez mostra un video da lei girato, nascosta dietro i fogli del giornale Gramma. Un amico chiede un'ora di connessione alla reception dell'hotel Meliá Cohiba e subito gli chiedono il passaporto. Non ho il passaporto, con me la carta d'identità. Ma la carta d'identità cubana equivale a un'autodenuncia, serve un passaporto straniero perché solo gli stranieri possono navigare in internet. Senta, mi dice una cosa, Lupi, perché Gianni Minà se l'è presa così tanto con Ioani Sanchez? Se l'hai spiegato? Ma me lo sono spiegato, ho scritto anche un articolo per controbattere alle cose che lui ha detto. Gianni Minà se l'è presa con Ioani Sanchez con i soliti motivi pretestuosi, dicendo che è una persona pagata dall'impero, è una persona pagata dal nord, che fa le cose perché qualcuno la sta spingendo a farle, ma non le fa con spontaneità. In realtà è proprio vero il contrario, io con Ioani Sanchez ho un'amicizia, più che traduttore sono un suo amico, sono quello che l'ha portata in Italia e che per primo l'ha tradotta, e posso garantire che Ioani Sanchez esprime soltanto il malcontento del popolo cubano, dei ragazzi come lei, della generazione Y, i ragazzi di 30 anni che sono nati in questa utopia e che vogliono liberarsi di questa utopia, perché è un'utopia che non ha realizzato nulla, ma soltanto ha nazionalizzato la miseria, come diceva Cabrera Infante. Sento un'altra cosa, lei ha l'impressione che non ci sia poi questa grande solidarietà o attenzione nei confronti di cose di questo tipo, cioè dire Cuba appartiene a quelle cose di cui ormai non si parla più, no? Quasi relegate in un angolo, sì ci sono gli oppositori, ci sono i dissidenti, ma insomma che sarà mai, ormai finirà, c'è Raul Castro, Castro morirà, anche lei ha questa percezione? Beh, ho proprio questa impressione, c'è questo, anzi in Italia forse c'è qualcosa di peggio, perché ci sono moltissime persone, anche tra i democratici, non occorre essere estremisti di sinistra, sì, che sì, credono che là si sia realizzata veramente l'idea di una società dove tutti sono uguali. Ecco, questo non è assolutamente vero, basta andare lì, viverci per qualche mese insieme a loro, certo, non nelle case di protocollo o negli alberghi per turisti dove vanno i giornalisti che dicono che ci sono le persone mandate dal nord, andare lì e vivere nelle case dei cubani e parlare con loro e si comprende che questa utopia non si è assolutamente realizzata. Qui purtroppo c'è invece ancora questa idea, molti credono che è un comunismo, ma un comunismo dove tutti sono felici, all'acqua di rose, non è assolutamente vero, non sarà un regime come quello birmano, ma è un regime duro, dittatoriale, dove c'è un giornale unico nazionale, una televisione unica nazionale e nessuno è libero nemmeno di spostarsi da un luogo all'altro se non ha il permesso da parte dello Stato. Posto naturalmente che poi una società di uguali sia un obiettivo da raggiungere, no? Senta, ma le chiedo un'altra cosa. Ma una società senza ingiustizie, purtroppo la società cubana è una società dove le ingiustizie ci sono, e ci sono le classi sociali, e questa è la cosa più grave, non è assolutamente una società comunista. Senta, che difficoltà ci sono di comunicazione da parte di questa donna, di questa persona attraverso internet? Questo blog come viene alimentato, insomma? Io riesco a comunicare con SMS e spesso le telefono, perché già per email rischio di avere una risposta ogni 15 giorni. Che lei ha queste difficoltà adesso di comprare anche la carta prepagata e di potersi connettere, visto che gli alberghi negano l'accesso ai cubani negli hotel per fare questo lavoro su internet. Quindi è molto difficile per lei comunicare con l'esterno. Come è impossibile uscire, prendere un aereo e venire in Italia o andare dovunque la invitano. Questa è una grave libertà di movimento, una grave limitazione alla libertà personale. Certo, certo. Bene, io la ringrazio, grazie e buona presentazione domani di questo libro, purtroppo senza la protagonista. Grazie a Gordiano Ma Lupi, ci sarà comunque, dalla provincia. Ci sarà in diretta da Cuba telefonica. Diretta telefonica, meno male, sì, almeno, sì, almeno questo, no? Almeno questo. Siamo riusciti a far questo, sì. Grazie a Gordiano Lupi, Vito, provincia di Pavia, Alberto da Milano, Ivan dalla provincia di Milano. E andiamo a Vito, va, Vito, provincia di Pavia. Prego. Buonasera, dottor Cruciani. Dica. Come ho detto prima, avevo bisogno di parlare di due argomenti. Scusi un attimo, Vito, qualcuno poi se la prende con me. Ho letto un sacco di messaggi, ma come fa a parlare così male dei premi Nobel, Saramago, lei si vuole mettere all'altezza di Saramago, ma vi rendete conto? A parte che qui non siamo politicamente corretti e ce ne freghiamo, possiamo parlare male o bene di tutti secondo certe regole, naturalmente, che sono quelle della buona creanza, ma vi rendete conto di quello che scrive, pubblicato credo su Micromega da qualche parte, cos'è Saramago? Premio Nobel. Io vorrei che ve ne rendeste conto, perché insomma uno può anche essere accecato dall'antiberlusconismo eccetera, però sono cose incredibili, sono cose incredibili, incredibili. Prego, Vito. Guardo con lei. Io intanto spero che, voglio dire, poi oltre a prendere i pregi della sua trasmissione, qualche volta può prendere anche una critica, no? Spero che questa l'accetta senza... Perché non dovrei accettare le critiche, scusi, se non ci sono le critiche questa trasmissione avrei bisogno di fargli una piccola critica senza che magari dica, no? Però prima di tutto dai, se lei non perde tempo e critica volevo fare dire comunque una cosa molto più seria. Io sono un imprenditore di 40 anni ho più di un'azienda. Chiamavo per questo, che ritengo una cosa molto importante. Io ho 30 persone a libro paga Sì. Pronto, mi sente? La sento, dica. Sì, senza persona li propaga e ci troviamo nelle condizioni veramente che le banche, cioè, non mi danno spazio per poter mantenere questa gente che ha delle famiglie. Veramente li sto girando tutte le banche, questo è un appello che faccio anche a Berlusconi, che sono corso a portargli dei voti. Vito, mi scusi un attimo, io però non conosco la sua situazione, se dopo me la vuole raccontare va benissimo, spero anche che interessi, adesso abbiamo la borsa per carità, ma non voglio che lei abbassi il telefono, resti con noi, sia a tempo e sia a modo di restare in collegamento, però le dico subito, lei poi mi racconterà brevemente quali sono i suoi problemi con le banche, io non le potrò rispondere perché non conosco la sua situazione, per carità c'è un problema generale del credito in Italia, di rapporti tra piccole imprese, soprattutto tra piccolissime imprese e le banche, però se uno non conosce le situazioni singole come si può rispondere? La ringrazio Vito, titoli del TG2. Crolla il prodotto interno lordo nei paesi europei, meno 5,9 in Italia, mai così male dal 1980, ma fanno fatica anche Germania, Francia e Inghilterra. Berlusconi, la crisi esiste, questi dati erano attesi, ma c'è un miglioramento, pesa il fattore psicologico, corre fiducia, replica Franceschini, servono misure concrete. Il Papa è rientrato a Roma dopo la lunga visita in Terra Santa, la pace in Medio Oriente è possibile, ripetuto, e ha lanciato un appello, mai più muri. È morta a Roma Susanna Agnelli, la sorella dell'avvocato, più volte parlamentare, è stata ministro degli esteri nel governo Dini, da anni era presidente di Telethon. Nessun accordo sul tetto delle spese per le scuderie di Formula 1, Mosley non si torna indietro, la Ferrari si rivolgerà al tribunale per bloccare il regolamento 2010. Va bene, questi titoli del telegiornale del secondo canale della RAI, il numero lo sapete, non ve lo ripeto più per stasera, volata finale con gli ascoltatori. Intanto non capisco le polemiche che ci sono intorno a un progetto in Italia, io già so che non sarà mai realizzato, che è quello del commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, Franco Ionta, il quale vuole fare che cosa? Per rimediare a quello che scriveva prima Luca Ricolfi, cioè alla emergenza abitativa nelle carceri, è un brutto termine, naturalmente all'emergenza carceri. In Italia da anni si dice che bisogna costruire nuove carceri, eccetera, ci sono lungaggini burocratiche pazzesche. Ebbene, Ionta cosa vuole fare? Vuole creare delle carceri galleggianti, delle navi praticamente, per rispondere a questa emergenza sovraffollamento nelle carceri, e non capisco cosa ci sia di scandaloso. Leggo, siccome una dovrebbe essere piazzata davanti a Genova secondo questo progetto, il sindaco Marta Vincenzi dire una follia che ci riporta al Medioevo. Di che stiamo parlando? Cioè, non capisco perché di fronte a soluzioni concrete poi ci sia una ribellione e ci sia una demagogia di questo tipo. Vabbè. Allora, eravamo con Vito dalla provincia di Pavia. Vito, prego, sì, velocemente però, Vito. Facendo questo, dica. Cioè, io voglio una cortesia da lei. Ma perché nascondiamo questo fatto che le banche stanno mettendo in crisi centinaia e migliaia di aziende? Non nascondiamolo, diciamocelo, cioè è la verità in realtà dei fatti. Chi lo nasconde? Scusate, io vedo, cioè, come dire, un qualcosa, come se fosse una cosa grave dirlo, come se qualche politico crea qualche problema all'interno del... Ma diciamocelo, è la verità, cioè è una cosa veramente vergognosa, ci ha tagliati i viveri. Io cosa le dico alla gente? Cosa le dico alla gente? Ma era la realtà dei fatti, alle aziende le stanno mettendo in croce. Che significa, cioè, non che significa ci ha tagliato fatto. I viveri? Che significa ci ha tagliato i viveri? Mi spieghi? Cioè, tagliati i viveri, ha cominciato ad abbassare i fidi, a far rientrare dentro, non hanno monetizzazione, cominciano a dirci dobbiamo andare a prendere i Tremonti Bond, però vogliono il 7% di interessi, noi sul mercato non riusciamo a metterli più del 6%, cioè tutte queste problematiche, alla fine tagliando i fidi ti mettono nelle condizioni di rientro, e cominciando a rientrare la gente cosa devi fare? Non riesci a tenerla. Non riesce a tenerla per il costo che ha. Va bene, Vito, la ringrazio. Il problema dei fidi, insomma, cercheremo di occuparcene per quanto possiamo occuparcene, naturalmente. Io lo prometto, la ringrazio. Dove andiamo? Andiamo a Bergamo. Robert, velocemente perché ci abbiamo verso la conclusione, dunque interventi più sintetici. Sì, Pronto? Mi sente? Robert, mi sente? Dica. Sì, io la sento. Niente, praticamente volevo agganciarmi all'ascoltatore di prima, coi posti sì. Sulla metropolitana. Mi sente, sì? La sento, pronto? Prego. Ok. Niente. Robert, non la, se continuiamo così non la finiamo più, però, dica. No, niente, per me la legge, i posti sulla metropolitana per gli italiani, per gli stranieri è una sciocchezza, non può essere neanche presa in considerazione. Non c'è più sul terreno questa proposta, non è mai stata nemmeno una proposta, è stata una provocazione. Non dico neanche, sì, è una provocazione, però che sì, non ma non è nemmeno, una provocazione. Poi delle ronde, stato... sì, passiamo subito alle ronde perché sennò sì, il tempo dica. È corto. Cioè, per me le ronde sono il fallimento dello Stato, ma perché non è che non possono esserci, sono tante associazioni guardi, di volontari. Guardi Robert, io non capisco quando si dice il fallimento dello Stato, secondo me non servono a nulla e istituzionalizzare le ronde non ha nessun senso, vedrà che non ci sarà questo proliferare di ronde in giro per l'Italia, dunque non serve a niente, dove ci sono gruppi di cittadini che vogliono organizzarsi da soli per pattugliare le strade, già la cosa viene fatta e non capisco, ripeto, a cosa serve fare una legge per questo, però non si può nemmeno dire che il governo vuole affidare la sicurezza alle ronde, questa è una stupidaggine che alcuni esponenti dell'opposizione dicono per così, perché c'è la campagna elettorale. La ringrazio. Ivan, provincia di Milano, buonasera. Sì, buonasera, dottor Cruciani. Prego. Dunque, un discorso molto semplice. Mia mamma frequenta la piscina di Arcore, la veterana della piscina di Arcore. In questa sua piscina... madre frequenta la piscina di Arcore, non mi spieghi questa cosa. Sua madre frequenta la piscina di Arcore. Più di 25 piscina anni cosa? Non frequenta la piscina di Arcore. La piscina comunale? Si trova di fianco alla villa del Presidente del Consiglio. Sì, sì, ma la conosco benissimo, ma la piscina comunale? Certo, piscina comunale, frequentata da... Piscina comunale. Da tutti, allora... dal popolo, dal cittadino arcorese. Vabbè, io sono contento che sua madre frequenti la piscina di Arcore, ma a noi cosa interessa questa cosa? No, io volevo segnalare che la piscina di Arcore è frequentata anche dalla moglie del Presidente del Consiglio. Detto ciò... Mi capto un paio di ragionamenti logici e concreti. No, scusi un attimo, però lei non può lasciar cadere le cose così. Lei dice: mia madre frequenta la piscina comunale di Arcore. Sì. E in questa piscina comunale, nonostante tutte le centinaia di piscine che ha tra Arcore, eccetera, eccetera, viene frequentata anche da Veronica Lario. Va bene, insomma, abbiamo appreso questa notizia. Veronica Lario frequenta la piscina comunale di Arcore. Allora, la piscina comunale di Arcore, senza regole del corpo, dunque... senza tanti trucchi, senza tante smanie per la testa. Ho capito, a parte le guardie del corpo spesso non si fanno vedere, non è che ci sono sempre le guardie del corpo. Vabbè, insomma, secondo lei questo atteggiamento è un atteggiamento poco snobistico, dunque un atteggiamento da apprezzare, questo vuole dire lei? Assolutamente, si capta. Vabbè, una logica si capta, che la signora Veronica Lario ha voglia di stare in mezzo alla gente normale, secondo me. Vabbè, Ivan... può darsi, non lo so, insomma, non mi sembra una cosa particolarmente importante. E invece il marito? L'egemonia che suo marito ha avuto verso la signora Veronica Lario, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il momento in cui il Presidente del Consiglio è andato al compleanno della ragazza lì a Napoli. Secondo me perché... No, scusi Ivan, devo chiudere poi, secondo me è perché va alla piscina comunale di Arcore, adesso lei ce lo ha svelato. Secondo me il vero motivo della rottura è il fatto che Veronica Lario frequenta la piscina comunale di Arcore insieme a sua madre. Ci sentiamo lunedì 18:30, ciao. La Zanzara.